Il gastronauta, l'Italia del cibo, di Davide Paolini. Non solo pizza, ma pane, pasta, dolci, insomma, tutti derivano dalla farina. Ebbene, dopo anni di perdita di identità e la trasformazione poi in prodotto generico, la farina torna al centro dell'attenzione fra nuove eccellenze e marketing, sì, molto marketing. È da sempre, diciamo, che è base indispensabile di ogni cucina del mondo, ma assieme poi a varietà antiche dimenticate, stanno tornando appunto i vecchi mulini di pietra ad essere riutilizzati, ma all'orizzonte appaiono anche nuove tecnologie. Insomma, oggi parleremo di questo argomento, che è la farina, che è poi la base della nutrizione di buona parte degli italiani. Anche in giro per il mondo credo che la farina sia la base di ogni cucina. Certo, molti non possono mangiare cibi prodotti con le farine, ma poi vedremo anche questo, per intolleranze, per la celiachia ed altro. Ma soprattutto è tornata la farina, se ne parla sempre più spesso, addirittura molti mulini fanno marketing che un tempo non facevano, vuol dire che ritorna alla ribalta. 800 24 00 24, per chi vuole intervenire in diretta, 349 238 6666, chi vuole intervenire attraverso SMS. Bene, cominciamo a parlare di pizza. Avete già sentito questa, diciamo, queste musiche di Pino Daniele sullo sfondo, e allora io inizio da Renato Bosco, che è un importante pizzaiolo, uno, diciamo, della nuova guardia. A lui chiedo subito: ma Renato, cos'è successo? Si mangia meglio oggi la pizza perché le farine, diciamo, sono migliorate, oppure i pizzaioli sono diventati più bravi? Buongiorno a tutti, buongiorno Davide. Diciamo che il pizzaiolo è cambiata anche la tendenza nel mangiare la pizza, di conseguenza il consumatore è più attento, si mangiano più farine macinate a pietra, di conseguenza farine che sono più ricche di fibre, sali minerali e di parte cruscale, e di conseguenza picchi glicemici molto più bassi. Ma soprattutto siamo noi che siamo cambiati come pizzaioli, siamo cresciuti, ci stiamo approcciando alle scuole con molto interesse, ci sono dei mulini che stanno lavorando molto bene per far conoscere a noi, per poi divulgare ai nostri consumatori nella qualità dell'italianità del nostro grano, che è veramente eccezionale. Quindi grano italiano, ma il grano italiano ce n'è ben poco, quindi bisogna sempre ricorrere all'estero, caro Renato. Sì, è vero che noi siamo i più grandi importatori di grano, perché circa il 70% del grano arriva da tutto il mondo, però noi abbiamo delle sinergie col territorio, guarda l'Emilia Romagna, che con le coltivazioni integrate ci dà del prodotto sano, pulito e di conseguenza 100% italiano. Bene, abbiamo parlato di pizza, ma parliamo anche di pane, perché sicuramente il pane è un aspetto della vita, soprattutto di noi italiani, estremamente importante. E per Pierluigi Roscioli, del Forno Roscioli di Roma, mi sono dimenticato di dire che Renato Bosco si chiama Saporè, la sua pizzeria. Pierluigi Roscioli, del Forno Roscioli di Roma, è un importante panettiere, quindi anche lui chiedo: sono cambiate le farine o i panettieri riescono a fare un pane migliore? Buongiorno Davide. Buongiorno. Io volevo invece fare un po' di autocritica da parte di tutta la categoria panettieri e pizzaioli. Non sono cambiate le farine, o meglio, le farine sono cambiate sì, ma sono cambiate per rendere più facile la vita proprio alle nostre categorie, perché poi comunque i mulini, che hanno insistito molto negli ultimi anni anche nel marketing, hanno sempre teso a dare delle farine meno problematiche, cioè delle farine più di forza, più glutinose, con assorbimenti migliori, e questo qui, diciamo, ha un po' appiattito le capacità del pizzaiolo. Come diceva Renato, infatti molto spesso i corsi o gli aggiornamenti si fanno all'interno dei mulini, ma parliamo di farina e parliamo poco di cereale. Insomma, storicamente il suolo italiano non può dare un cereale che sia molto forte, cioè che abbia un contenuto proteico molto molto elevato, come può essere il suolo americano che ha subito molte glaciazioni, insomma. E quindi i mulini si sono un po' adeguati a questa cosa, sia quelli che lavorano a pietra, senza demonizzare quelli che lavorano con tecnologie che sono comunque apprezzabilissime e stanno migliorando molto negli ultimi anni dal punto di vista della lavorazione del cereale, anche quelli non a pietra. Però diciamo che insomma il mulino si rivolge al suo cliente, il suo cliente o è un pizzaiolo o è un panettiere, e dietro, a volte dietro la maschera di farine integrali, semi integrali, come diceva giustamente Renato, con una parte, con un contenuto maggiore di sali minerali e di parte insomma integra, si nasconde un grano molto più proteico con un contenuto di W più alto, che facilita la vita del pizzaiolo. Io storicamente, insomma, tu sai, io sono la quarta generazione di questo mestiere, ho sempre avuto insomma la memoria storica da mia madre, da mio padre, di farine, quando le farine erano molto scure, erano molto difficili da lavorare, e mi sorprende molto invece il fatto che oggi le farine più scure siano così facili da lavorare, insomma. Bene, grazie per Luigi Roscioli. Rimane con noi Renato Bosco, perché c'è un problema che ti devo porre da un radioascoltatore. Linea alla regia, torneremo fra poco, rimanete con noi. BMW Freeride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta Il Gastronauta, l'Italia del cibo. Eccoci di nuovo a parlare di farine, a parlare di grano, a parlare di pizza, a parlare di pane. Sentiamo Gabriella da Bologna, una radioascoltatrice. Buongiorno Gabriella. Buongiorno a voi. Prego. Io volevo chiedere che farine utilizzare per fare una buona pizza. Guardi, abbiamo appunto Renato Bosco che lo ha lasciato in linea per questa sua domanda. Prego Renato. La risposta è abbastanza facile ma anche complicata, nel senso che oggi con la tecnologia che noi utilizziamo, cioè comunque le farine che possiamo approvvigionare per produrre la pizza, non parliamo del supermercato perché è veramente difficile poi dare dei parametri, comunque quando lei legge un valore proteico, in questo caso mi riconduco anche a quello che ha detto il nostro Roscioli, logicamente la proteina è quella che diciamo dà la qualità del nostro grano stesso. Se mi approccio a una farina con tenore proteico molto basso, farò delle lievitazioni molto corte; se invece prenderò una farina molto proteica, avrò delle lievitazioni molto lunghe, magari utilizzando anche la tecnica del freddo. Però questa penso che non sia la risposta che si aspettava la nostra telespettatrice, radioascoltatrice. Lei si aspettava come fare una buona pizza. La pizza parte dalla materia prima, io selezionerei farine macinate a pietra, di conseguenza più ricche di enzimi, ma soprattutto di fibre, sali minerali che aiutano molto la fermentazione e la lievitazione, così abbrevi anche questi tempi, e magari non aggiungendo oli e grassi, togliendo anche questi, visto che nella macinazione a pietra c'è anche diciamo così i germi di grano, e magari utilizzando anche il lievito madre, che è un apporto in più che al nostro, diciamo, alla acidità del prodotto stesso è importante. E per ricondurmi a quello che diceva anche Roscioli, attenzione che l'integralità del prodotto può arrivare dall'industria attraverso una farina W0 che viene aggiunta alla crusca. Noi quando parliamo di farina macinata a pietra parliamo della naturalità. Bene. Grazie a Renato Bosco, 800 24 00 24. Sentiamo Lisa da Roma. Buongiorno Lisa. Buongiorno. Allora, io ho una figlia celiaca di 45 anni, l'ha scoperto circa 10 anni fa. Da quel momento ho approfondito tantissimo l'argomento farine e tra l'altro sono diventata molto spaventata e scettica nei confronti delle farine, perché tra le informazioni raccolte ho visto che è l'alimento più sporco che possa esistere, perché non si può lavare. Quindi il grano viene messo nei silos, poi viene macinato, fa dei giri incredibili e quindi diventa vecchio così. Quindi ecco perché oggigiorno tra l'altro ci sono tantissimi celiaci o celiachi che dir si voglia. Tra l'altro la farina poi viene messa dappertutto, nelle creme di bellezza, nei prodotti per, dappertutto c'è la farina, quindi veramente bisognerebbe stare attentissimi e trattare con più onestà questo prodotto, perché fin quando arriveranno dal Canada, come è successo anni fa, quintali di farina che poi si è scoperto che non so che cosa avesse di sbagliato e di negativo, viene data magari ai pastifici. Io quando compro una pasta, anche per noi non celiachi, tremo. Bene, grazie signora di questo suo allarme. Ma ora abbiamo con noi Dario Bressanini, docente di chimica all'Università dell'Insubria, che il quale diciamo che da anni, come posso dire, ha svelato certi misteri, a cominciare dal Camut. È vero Dario? Non sì, tutto, ciao Davide. Non tutto è oro quello che luccica. Ma no, tu infatti parlavi prima, ti sentivo di marketing. Questo è un caso in cui diciamo il marketing è riuscito a trasformare un grano della famiglia dei frumenti, che è questo appunto, ne è chiamato Camut. Il Camut in realtà è un marchio registrato, si chiama Triticum Turanicum, è una delle centinaia di specie di frumenti che ci sono. È riuscito a trasformarlo in un caso commerciale, per cui molte persone, addirittura sentivo la signora prima che aveva la figlia celiaca, all'inizio il marketing è riuscito a far credere che il Camut fosse adatto ai celiaci, mentre in realtà non è così, è un grano analogo al grano duro. Qualcuno, i ricercatori recentemente hanno supposto che in realtà sia un incrocio tra il nostro grano duro, quello con cui facciamo la pasta, è un grano polacco, e ne è nato questo Triticum. Non ha né pregi né difetti in più e in meno rispetto agli altri, costa molto di più, ecco, quello sì, ha un sapore diverso, però non è così tutto magico come a volte lo si dipinge. Abbiamo con noi anche Mimmo Casillo dei Molini Casillo, Selezione Casillo, e a lui voglio chiedere: hai sentito, non so se hai sentito, la signora che si è scatenata contro le farine che si trovano in giro? Lei dice molte volte sicuramente non sono quello che poi dichiarano, ma è così Mimmo? Non ci sono controlli? Ad esempio questi, ha parlato di questo, dice questo vagone che era arrivato dal Canada, ma non credo che sia dal Canada, comunque credo che lei si riferisce agli OGM, credo. Mimmo, ci sono controlli? Buongiorno a tutti, prima di tutto, saluto tutti gli ascoltatori di Radio 24. Purtroppo sull'argomento c'è tantissima disinformazione, e quindi è nostro compito degli operatori del settore di fare chiarezza su come effettivamente stanno le cose. E la nostra azienda ha proprio come obiettivo nei prossimi mesi, nei prossimi anni, di organizzare tavoli, convegni, avendo come appunto pubblico il consumatore finale, proprio perché c'è bisogno di informare e non di disinformare. Credo che questo sia un grosso problema, come ad esempio in questi ultimi tempi si parla moltissimo di grani antichi. Bressanini, tu cosa ne pensi? Cioè, questi grani antichi veramente contengono più glutine? Cioè, cosa hanno rispetto, diciamo, a quello che chiamiamo grano moderno? Ma allora, quello che possono avere è magari un aroma diverso, un sapore diverso, perché è come parlare di mele o di pomodori. Uno, ci sono centinaia di varietà e ognuna ha un aroma un po' diverso, un sapore un po' diverso. Il punto è che mi fa un po' sorridere quando si parla di grani antichi, quando in realtà si vanno a riprendere magari grani che si utilizzavano, non so, 50 anni fa o 100 anni fa, ecco. Quindi dal punto di vista genetico non sono per nulla antichi, sono tutti moderni. Può essere una riscoperta per un aroma particolare, per un sapore particolare. Sono stati abbandonati molto spesso perché avevano delle scarse rese ed erano anche, come tu dicevi, magari, no, non tu, scusa, come diceva prima l'altra persona che è intervenuta, poco adatti alle trasformazioni e all'uso per la panificazione, ecco, quindi, però le tecnologie di adesso permettono probabilmente di sopperire magari a dei difetti, come appunto il tipo di glutine, non è solamente il contenuto proteico, ma anche alcuni altri parametri. È un fenomeno così interessante, ma non c'è nessun motivo per preferirli che sia di tipo, diciamo, salutistico o nutrizionale, ecco, solamente una questione di gusto, secondo me. Okay. Luigi da Mantova, buongiorno, radioascoltatore. Buongiorno Davide. Buongiorno. Se posso, io vorrei fare questa domanda in sintesi e senza entrare troppo nel dettaglio tecnico. Se è vero che c'è una differenza nella organolettica anche dal punto di vista del contenuto salutistico della farina raffinata 0001 e così via, come mai non c'è un'informazione adeguata, semplice anche per tutta la gente che ascolta, e soprattutto come mai non si trova nei negozi, nei supermercati? È difficilissimo, cioè nei supermercati si trova sempre solo la 00, che da quello che si dice dovrebbe essere quella meno adatta, sia per quel che riguarda appunto l'aspetto salutistico, anche il gusto. Ma io non credo che non si trovi, Casillo, non si trovano le farine di cui stiamo parlando oltre alla 00 nei supermercati e nella distribuzione? Ma questo tipo di farine è da poco tempo che iniziano ad essere presenti sugli scaffali della grande distribuzione. Il problema è che per noi diciamo produttori non è facile l'accesso allo scaffale, perché chiaramente ci sono delle logiche di mercato che portano più ad acquistare la merce di prodotti di largo consumo rispetto a quelli che magari vengono considerati tra virgolette prodotti di nicchia, che offrono degli aspetti nutritivi diversi, superiori a quelli che effettivamente è la normale 00. Però sia ben chiaro, noi ci stiamo battendo per fare una comunicazione a 360 gradi che non deve portare alla demonizzazione della 00, perché la 00 è una farina che ha degli utilizzi imprescindibili, tipo quelli in pasticceria, dove se non ci fosse questo tipo di farina raffinata non si potrebbero raggiungere degli standard qualitativi e produttivi che sia l'artigiano che l'industria richiede. Sentiamo Michele dalla provincia di Varese. Buongiorno Michele. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti quanti. Prego. Allora, io volevo più una domanda che mi sorge ascoltando la vostra trasmissione. Dall'ultima volta è rimasto un punto di domanda, dall'ultima volta non da voi, l'ho sentita a Presa Diretta o a Report, che è una delle trasmissioni. Sono rimasto scioccato nel sentire che le farine usate per la pizza in Italia fanno male, perché utilizzano la farina 00. Beh, insomma, fanno male il Vangelo. Ora io non credo ci fanno male, probabilmente c'è qualcuno che non le digerisce o qualcuno che è intollerante, questo può essere, ma che fanno male così al 100% come una assoluta dichiarazione mi sembra troppo. Io non credo, probabilmente c'erano delle sfumature, caro Michele, bisognava ascoltarla fino in fondo quella trasmissione. Bene, linea alla regia, torneremo fra poco, rimanete con noi, grazie. Il gastronauta, l'Italia del cibo. Eccoci di nuovo a parlare di farine, a parlare di pizza, a parlare di pane, ma l'argomento che sorge sempre è il glutine, la celiachia, le intolleranze. Allora abbiamo con noi una ricercatrice anche di famiglia, diciamo di produttori di dolci, quindi sicuramente conosce molto bene l'argomento, oltre che come ricercatrice anche sul campo diretto. Buongiorno Francesca Morandin. Buongiorno a tutti, è un piacere essere in linea con voi. Buongiorno Davide. Grazie. E Francesca, tu ti occupi molto di glutine. Ecco, vuoi dire qual è la situazione ad oggi? Cioè le farine quasi tutti contengono glutine ovviamente, ma c'è modo appunto di alleggerire il glutine negli impasti, nel pane, nella pasticceria, soprattutto nella pizza? Bella domanda. Allora, ci sono dei cereali ovviamente che non contengono glutine, no? Quindi possiamo ricordare riso, mais, grano saraceno. Tra l'altro il grano saraceno si chiama grano di ordine comune, ma in realtà non contiene glutine. Ovviamente è difficile, no, riuscire a panificare dove non c'è glutine, quindi non ci sono proteine formanti glutine. E questo è un problema. Perché ovviamente la struttura del glutine è fondamentale per ottenere delle ottime lievitazioni, no? Quindi gli alveoli che siamo abituati a trovare nei prodotti da forno. Ci sono, no? Bisogna trovare delle miscele che ci possono permettere di panificare benissimo, direi oggi. Il problema grosso è che queste miscele contengono all'interno delle sostanze che non sono così salutari, che ovviamente creano la struttura del glutine. Quindi quando si va al supermercato a cercare delle farine che non sono farine ma sono delle miscele di cereali non contenenti glutine, bisogna sempre fare attenzione agli ingredienti, no? Che ci sono all'interno, certo. Proprio per cercare appunto la massima salubrità. Ecco, Bressanini, mi sembra di capire, e tu puoi confermare o meno, che molti prodotti senza glutine, il famoso ormai che gira dappertutto, ci sono manuali, ci sono centinaia di prodotti, per chi diciamo non dovrebbe usarlo, cioè coloro che non sono intolleranti o non sono celiaci, fa ingrassare. Allora, il glutine sono proteine, e quindi le proteine ingrassano, sono calorie esattamente come l'amido, esattamente come il grasso, cioè qualsiasi cosa alla fine fa ingrassare. Il punto è che se uno, cioè il glutine è insostituibile nella panificazione, perché fa appunto crea una maglia che intrappola, nel caso del pane o della pizza, l'anidride carbonica prodotta dai lieviti. Allora, se non si utilizza il glutine, si devono per forza, obbligatoriamente, utilizzare altre sostanze chimiche che però cioè non sono necessariamente dannose. Mi ricorda un po' la polemica sulla cucina molecolare. Una di queste sostanze è la xantana, che esattamente si utilizza anche in alta cucina, come tu sai. Serve per forza per creare questa maglia che intrappola l'anidride carbonica, altrimenti non se ne può fare a meno. E volevo aggiungere anche prima, cioè, come dicevi giustamente tu, la farina del 00 non è da demonizzare. Ci sono alcuni ambiti in cui è insostituibile. Il panettone, per esempio, è impossibile fare un panettone, non so, con la farina integrale, perché il glutine non si forma abbastanza. Quindi è chiaro che uno non deve mangiarsi il panettone tutti i giorni, però dire che la farina 00 è un veleno, come sempre si sente in giro dire, è assolutamente sbagliato. E io chiedo proprio a Francesca Morandin, che diciamo la cui famiglia è nota per la produzione di panettoni. Allora, si può fare un panettone senza farina 00, Francesca? Ma allora, si riesce a fare un panettone senza glutine. Ovviamente non può avere le stesse caratteristiche, nel senso che il classico alveolo è molto difficile da ricreare. Diciamo che si cerca in qualche modo di avere una struttura simile. Il mio scopo è quello ovviamente di lavorare con degli ingredienti al massimo 100% naturali, e questo non è semplice. Quindi insomma è difficile, si può fare ma è difficile. Bene, ora andiamo in Sicilia da Giuseppe Lirosi, che è uno pioniere dell'agricoltura biologica nell'isola, non solo, anche di un ritorno ai grani antichi. Buongiorno Lirosi. Buongiorno caro. Ma le volevo chiedere, lei da 10 anni diciamo si sta dedicando a questi tipi di sementi proprio tradizionali della Sicilia, quali difficoltà ha trovato? All'inizio ho trovato difficoltà, sono state burocratiche, perché questi frumenti, dopo la mutagenesi indotta fatta sul frumento che è stato analizzato, quindi nel 74, sono stati messi ai margini. È stata creata una lista di varietà possibili da seminare per ottenere contributi da parte della comunità europea, e tutte le varietà locali siciliane sono state messe al bando, non rientravano in questa lista, quindi all'inizio ho voluto introdurli di nascosto per non perdere i contributi europei. Ora potrei anche farne a meno dei contributi europei, perché riescono a dare una ottima marginalità, perché c'è un buon valore aggiunto, sto anche riuscendo a conservare il mio capitale, che non sono gli ettari né le attrezzature né il conto in banca, ma il mio è un capitale ecologico che di anno in anno riesco a aumentare sempre più, applicando metodi produttivi quale il biologico o la biodinamica. E poi c'è un grande riscontro da parte dei consumatori delle farine o dei prodotti fatti con queste farine, assolutamente eccellente come riscontro. Si ricevono telefonate, mail di persone che finalmente riescono a rimangiare nuovamente la pasta. Certamente il celiaco non può farlo, perché ormai ha distrutto il suo intestino a causa di un glutine che è stato migliorato geneticamente, fra virgolette, per renderlo sempre più forte e rendere la rete glutinica sempre più forte, per riuscire a facilitare le panificazioni e specialmente la pastificazione, perché per riuscire ad abbattere i costi dell'industria pastificatoria è stato richiesto alla ricerca scientifica un glutine più forte per supportare le alte temperature di essiccazione. Quindi hanno abbattuto i loro costi, ma non hanno avuto alcuna attenzione per l'intestino dei consumatori. Senta, ma tra un pane prodotto con un grano antico e un pane prodotto con un grano diciamo moderno degli ultimi anni, qual è la differenza? È una differenza organolettica di gusto, oppure c'è anche un'altra differenza molto più importante di proteine e di altro? Bene, solitamente i grani locali, che qualcuno chiama anche antichi, ma locali perché appartengono alla tradizione della nostra civiltà rurale, che è una delle civiltà più antiche del pianeta ancora oggi esistenti, hanno delle proteine a volte inferiori. E come diceva Bressanini, hanno aroma e sapore diverso, però questo aroma e sapore diverso è dato dalla presenza di microelementi e di sostanze fitochimiche come i polifenoli, i flavonoidi, lignani, isoflavoni, oppure i carotenoidi, i tocoferoli e le fibre, che svolgono poi importanti funzioni farmacologiche, no? Inclusa l'attività antitumorale, antinfiammatoria, immunosoppressiva, cardiovascolare, antiossidante, antivirale. E ancora la ricerca non si è addentrata bene, perché non è stata ancora finanziata, che sono tutti microelementi e polifenoli che nei grani moderni sono in quantità molto ma molto inferiore. L'ultimo studio fatto dal CRA nazionale qui in Sicilia, dove ha paragonato varietà siciliane con varietà moderne, per esempio se nelle siciliane c'è 55 mg di ferro, nelle moderne ce ne sono appena 37, oppure che so, possiamo andare a vedere lo zinco 44 su 38, o lo stronzio 8 su 5, quindi c'è l'aroma e sapore, sì è vero, ma quello è indicatore che ci sono delle cose in più, mentre invece potremmo trovare all'interno di farine moderne o convenzionali più arsenico e più cadmio, oppure anche ocratossina, dato che i grani moderni vengono dal Canada, dall'Australia, devono attraversare il mare, devono attraversare gli oceani, le stive non sono sempre comunque ermetiche, l'acqua marina si infiltra e così via. Bene. C'è una differenza sostanziale, oltre a quella dell'ambiente, della sostenibilità nella produzione di questo, perché se una farina di grano antico chiamato costa quattro volte superiore in più, quello è il prezzo esatto, mentre invece una farina 00 che costa anche 60, 70 centesimi, 90 centesimi ha dei costi nascosti, e sono tutti costi ambientali che pagano tutti, sono costi anche sanitari, perché non è vero che fanno che non cioè se uno si ciba solamente di farina 00 alla fine avrà una carenza di fibre, avrà una carenza di microelementi, assolutamente sì. Non bene. A dirlo, sono degli studi fatti su questo. Sentiamo Bressanini, concordi? Ma no, almeno non in tutto. Diciamo che, come dicevo, sono diverse, però diciamo, nessuna ricerca per ora ha dimostrato che possano avere un vantaggio nutrizionale significativo sulle persone che se ne nutrono. Il fatto che ci sia un po' più di ferro o un po' più di stronzio, noi non assumiamo il ferro sostanzialmente dalla farina, noi abbiamo una dieta variata, per cui andare a focalizzarsi sui singoli microelementi e non invece prendere in considerazione la dieta complessiva che uno ha, secondo me è fuorviante. Come dicevo, è giusto che vengano riprese, perché sia perché fanno parte della tradizione locale, in questo caso siciliana, sia perché danno una possibilità maggiore al consumatore di variare le proprie possibilità. Per ora, a oggi, non ci sono dimostrazioni che possano dare un vantaggio, diciamo, di tipo nutrizionale o salutistico. Bene, sentiamo Gabriella da Varese. Buongiorno Gabriella. Sì, buongiorno, grazie di tutte le informazioni che ci date. Prego. Avevo una domanda. Io mi sono appassionata nel fare il pane in casa, mi piace molto, e mi sono fatta anche il lievito madre. Uso farine integrali biologiche, ma quando le uso non riesco a farlo crescere bene, rimane un panino duro che non diventa friabile. Volevo avere qualche indicazione. Sì, ora gliela faremo dare. Sentiamo Vincenzo D'Asti, velocissimo. Vincenzo. Grazie, molto gentile, stavo dormendo qua. Dica. Pronto? Allora, no, io volevo portare una considerazione. Dal momento che io sono derivo da un'altra professione, 20 anni che adesso gestisco delle pizzerie e ho avuto anche dei dipendenti islamici, diciamo, usavano farine e ingredienti che forse per la nostra alimentazione sono esagerati, perché oggi ho riscontrato su un tipo di farina una dirigibilità molto valida. Penso che noi dobbiamo valorizzare più la nostra cucina, la nostra pizza, la nostra farina, e creare delle farine molto digeribili. Non, io sinceramente non ho niente con farine diciamo straniere, per carità, perché ho un collega che è egiziano, per cui però bene, usiamo farine italiane o cucine italiane. Bene, grazie Vincenzo, do dalla linea alla regia, torneremo fra poco. Grazie a Ali Rose, grazie a Dario Bressanini. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta Il Gastronauta, l'Italia del cibo. Eccoci di nuovo a parlare appunto di farine. Abbiamo sentito appunto pareri molto, molto diversi l'uno dall'altro. Beh, abbiamo sentito anche una nostra radioascoltatrice che ha chiamato dicendo che impastando col lievito madre farina integrale si fa molto più fatica. Francesca Morandina, è così? Sì, assolutamente vero. Ahimè, perché le farine integrali contengono molti enzimi, crusca, e quindi questo interferisce sia nella formazione del glutine ma soprattutto accentua l'acidità lattica, quindi l'acidità lattica dà dei problemi ovviamente alle proteine della farina, e quindi sicuramente questa ascoltatrice farà fatica a far lievitare il suo pane. Uno, appunto, perché potrebbe avere un lievito estremamente acido, e poi questa acidità ovviamente va a contrastare la formazione del glutine durante la panificazione. Bene, grazie Francesca, ma ora voglio toccare un ultimo argomento, perché vedo che molti SMS che ci arrivano sono tutti basati sulla scarsa informazione che si hanno sulle farine. Io voglio chiedere a Chiara Quaglia del Molino Quaglia se è proprio così, ma voi Molini date poche informazioni al consumatore? Buongiorno Davide, buongiorno a tutti. Ma noi Molini diamo poche informazioni, è una cosa che sta a Molino Quaglia sembra una domanda un po' difficile, nel senso che noi abbiamo costruito la nostra comunicazione solo esclusivamente sull'informazione. Lavoriamo dal 2006 gestendo eventi e informazioni direttamente sul sito, al consumatore direttamente oppure al professionista anche attraverso la scuola, solo per dare informazioni sulle farine, perché ho sentito finora parlare di farine raffinate e di farine integrali, dimenticando il fatto che dalla farina 00 alla farina integrale c'è tutta una serie, c'è una serie di prodotto che può essere estremamente interessante. Sono farine sicuramente che possono essere meno raffinate rispetto alla 00 e che non sono assolutamente integrali e che consentono la realizzazione di prodotti molto interessanti sia in termini di gusto che in termini di consistenza e soprattutto di profumi. Bene, quindi ecco, andiamo a colmare questa ultima lacuna. Beh, io l'ho chiesto a lei, Chiara, perché era il mulino in questo momento, diciamo, in trasmissione, quindi l'ho chiesto a lei il discorso dell'informazione, non era voluta, cioè la domanda al suo mulino, era in generale. Ma volevo Luca dalla provincia di Pistoia. Buongiorno Luca. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Prego. Mi piaceva di puntualizzare un discorso sul glutine. Sì. Perché prima, ascoltando la trasmissione, ho sentito l'intervento che diceva che tra le farine antiche, i grani antichi e quelli moderni non c'è poi così tanta differenza, forse in termini di tempo rispetto ai secoli, però anche il glutine non è, diciamo, dello stesso tipo, un po' come il colesterolo, no? Che ce ne sono due tipi, uno fa bene e uno fa meno bene. E il glutine sulle grani, diciamo, di più recente studio e utilizzo per la panificazione industriale, hanno il cosiddetto punto V, che è un parametro che favorisce molto la lievitazione, che sono cose necessarie per i processi industriali, ovviamente non adatti a quelli di una volta, che dove non si doveva sfamare, diciamo così, tanta gente tutta insieme velocemente. Per cui il glutine dei grani antichi non è lo stesso, è molto diverso, ce n'è più di quello buono, un po' come il colesterolo, e meno di quello meno buono, chiaramente a scapito della lievitazione. Chiunque volesse prendere informazioni, insomma, su tutti questi aspetti qui può approfondire su internet e si trova tutto, poi valuta e farà le sue scelte. E questo è il mio contributo velocissimo. Bene, Chiara, concorda con questo intervento? Allora, sicuramente ogni consumatore può fare una scelta di un prodotto di diversa realizzazione, di diversa raffinazione, anche perché oggi il mercato ce lo consente. Il fatto che i produttori abbiano comunque riportato a disposizione del consumatore varie tipologie di farine, quindi mettendo a disposizione anche farine e grani che non erano più normalmente utilizzati, non erano più in commercio, credo sia stata una grande opportunità nei confronti del consumatore. A questo proposito noi possiamo dire che questo ha stimolato anche il mondo agricolo a maggiore attenzione nei sistemi di coltivazione. Abbiamo visto sorgere delle attività gestite anche attraverso la collaborazione delle università, di cooperative, di istituti meteorologici, di progettualità tipo l'agricoltura integrata. L'agricoltura integrata è un sistema di produzione agricola a basso impatto ambientale che è molto stimolante per il mondo agricolo, che riconosce al mondo agricolo valore nell'attività di produzione, nella selezione delle sementi, soprattutto nella gestione dell'ambiente a tutela della salute del consumatore. La produzione integrata, per esempio, è un modo evoluto per realizzare agricoltura sostenibile, ottimizza l'utilizzo delle risorse, produce cibi più sani e sicuri, proteggendo le risorse ambientali, osserva normative nazionali e comunitarie e soprattutto supera i concetti dell'agricoltura biologica, in quanto di per sé l'agricoltura biologica non è sufficiente a soddisfare le esigenze di un'agricoltura di mercato e quindi ci dà più garanzie, per esempio, nella produzione di grani che vengono coltivati senza l'utilizzo di fertilizzanti in oltremodo e di fitosanitari che tengono conto di condizioni meteo e di difesa alla pianta, che sono importantissime. Queste sono tutte tecniche agronomiche molto importanti perché ci aiutano ad ottenere grani molto interessanti, grani che ci danno soprattutto la garanzia di essere realizzati in un territorio vicino alle zone poi di trasformazione e che ci danno l'opportunità di avere prodotti sicuramente più sicuri dal punto di vista, diciamo, proprio della sicurezza alimentare. Poi i molini possono intervenire con la grande attenzione proprio nel metodo di pulizia e di selezione della materia prima, per cui ci sono tante attività che vengono svolte proprio per portare e rendere disponibile al consumatore varie tipologie di prodotti trasformati in farina che sicuramente oggi sono molto di grande aiuto al consumatore per ottenere prodotti anche più gustosi, più sani e a riscoprire soprattutto l'interesse di approcciare un cibo come un pane, una buona pizza che era un po' scomparso, se vogliamo, no? Quante volte ci siamo sentiti dire e abbiamo magari anche espresso l'opinione che il pane come una volta era scomparso, il gusto del pane eccetera. Sicuramente tutte queste attività svolte sia nel mondo agricolo che nel mondo della trasformazione hanno creato l'opportunità anche per il consumatore di riappropriarsi di certi gusti, di certe attenzioni che erano proprio scomparse dai nostri prodotti. Sì, devo dire che a questo punto mi viene di ricordare un libro bellissimo del Priore di Bose, Il pane di una volta, perché dentro ci fa rivivere certi momenti e certi profumi probabilmente che sono scomparsi, speriamo veramente che tornino. Mi spiace che io ho tanti radioascoltatori che stanno telefonando, però non ci avviamo alla conclusione, non sono più in grado di farli rispondere. Vedo il glutine può far male non solo ai celiaci, Tommasina, Doriana, che appunto sono diciamo sunti che mi danno dalla regia di radioascoltatori di domande molto interessanti. Dalla panificazione aggiungono glutine perché il grano non rende come più una volta. Oggi si trovano farine ibride e per questo sono più dannose. Purtroppo non ho più tempo per dare risposta a questi quesiti che sicuramente sono molto molto interessanti. Io ringrazio Chiara Quaglia e Francesca Morandini. Io vi do appuntamento alla prossima settimana, ma vi voglio far ascoltare sul finale e vi saluto con questa bellissima canzone.